Boom, benvenuti. Minchia, forse il mio volume è un po' alto. Va bene, benvenuti, puntata numero 26, me lo stavo già per scordare. E, 25. Andrea, non mi confondere. Allora, avete già sentito la voce di Andrea, c'è anche Jacopo. Buonasera. E c'è anche un ospite. Buonasera, chi è? Buonasera, e l'ospite ha scelto il film come di solito fanno gli ospiti. E il film però è un film un po' particolare, e è un film dell'88 statunitense, e, che da quello che ho capito è un film classico, cult. Avrei detto, vabbè, e si chiama Killer Clowns from the Outer Space, e tra l'altro è anche il titolo è anche citato dentro il film, vabbè, comunque, è un film dei fratelli Chiodo, e che poi, vabbè, di tutta questa roba ne parlerà l'ospite, che è super esperto, infatti è proprio per quello che l'abbiamo preso, e è un film... che viene classificato, boh, che cazzo ne so, come genere dovrebbe essere una commedia, forse, e ha degli elementi horror sicuramente, degli elementi di fantascienza e anche degli elementi di commedia, e quindi è un po' un mischione di tutto questo. La cosa carina è che viene, che è un B-movie nel senso, cioè si può considerare un B-movie, ma non per il budget, che comunque è assurdo da quello che ho visto, è tipo 2 milioni di dollari quasi. E però, visto i richiami e visto come è stato girato, visto le scenografie, visto il tema, direi che si può tranquillamente dire che è un B-movie. E gli attori non li presento neanche perché non li conosco. E... non esistono, non hanno fatto nient'altro. Non esistono. Però devo dire che sono abbastanza cani, quasi tutti. E che altro dire? Praticamente la trama è descritta dal titolo, di fatto, nel senso che in una cittadina americana che si chiama Crescent Cove, atterra una navicella spaziale a forma di tendone da circo, e da cui escono dei clown che fondamentalmente uccidono la gente. E questa è la trama, cioè... direi che non c'è nient'altro da dire. E, è una cosa, vabbè, non so, ma anche Claudio probabilmente parlerà anche di questo, che è della colonna sonora, perché secondo me merita. Penso sia un gioiello, assolutamente. Esatto. Parlerà anche del doppiaggio, perché l'ho visto in lingua originale, ma mi hanno detto che il doppiaggio, anche quello, doveva essere una cosa incredibile, e quindi io di fatto non parlo di una sega. Il film non si prende mai sul serio, e per quello secondo me è fondamentalmente una commedia. Ed è diventato cult, non lo so, ce lo dici tu, Claudio? Sì, allora è diventato un cult perché tra le produzioni pecoregne degli anni '80 è forse la meglio riuscita, perché come hai detto tu, ha un bel budget, nel senso che anche per quegli anni 2 milioni di dollari era alto, ma non altissimo, ma non si può parlare comunque di un film con una produzione risicata, perché anche gli effetti speciali, devo dire che per quell'epoca erano azzeccati. Ah, è quasi Star Wars. No, però va bene. No, beh, però sì, dai, cioè, Sì, ci hanno preso, anche perché poi le scene che li coinvolgono sono poche, e hanno scelto delle scene giuste per non strafare. Però ecco, no, vabbè, i spoiler si possono fare, sì, oppure... Sì, sì, poi cazzo, un film dell'88. È caduto in prescrizione ormai. No, pensiamo, che ne so, al pagliaccio appiccicato sulla pellicola che corre di fianco all'auto dei poliziotti, pensiamo alla scena, alla scena dei passanti che guardano lo spettacolo di ombre cinesi proiettate sul muro, che vengono mangiate dalle ombre cinesi, tutte bello. La cosa, ma bella, anche solo il cane deve essere stato no, ma sì. Cioè io boh, cioè, ma poi la scena, cioè quello che caccia il palloncino e lo fa diventare un cane e poi, cioè no, vabbè. Ecco, quindi è perché è diventato cult? Ecco, ecco qua. È geniale. Niente, cosa, tu hai detto prima che il film non ha una trama, hai detto bene, perché effettivamente non c'è una trama. Cioè, questa qui. Che, sì, no, ma non è una trama, nel senso è una, uno svolgimento di eventi che lo spettatore guarda e ma non c'è il succo. Cioè, anche perché sono tanti sketch, fondamentalmente. Sì. Gli alieni arrivano, fanno casino, uccidono le persone, questi si vendicano, boh, punto, finito. Gli attori e il doppiaggio, è vero, dobbiamo parlare di ciò. Allora, il doppiaggio io l'ho visto sia in italiano che in lingua originale, che è in inglese. Io vi dico che in italiano fa spisciare ed è un'esperienza mistica, perché come al solito noi facciamo le robe alla Carlona, non avevamo probabilmente i soldi per ridoppiarlo totalmente, perché il film ti arriva sostanzialmente muto, quindi che cosa ha fatto la direzione del doppiaggio italiana? Ha pensato a come risparmiare, e la trovata è stata a dir poco geniale. Non ha messo gli effetti audio, cioè nel senso tipo la gente cammina e c'è il silenzio, vengono scagliate cose tipo nella scena del camioncino dei gelati all'inizio, dove ci sono le persone che amoreggiano e questi qua che arrivano e cercano di vendere i gelati. Ma gli altri due come l'hanno guardato? Scusami. Io l'ho visto in italiano, infatti mi sono collassato. Non ci sono gli effetti, cioè gli arriva addosso di tutto e si sente solo il silenzio e loro che si lamentano, ma sembra di essere disconnessi dalla realtà, cioè è una cosa meravigliosa. Poi vabbè, il doppiaggio è ovviamente storto, in ritardo, ci sono battute non dette, i personaggi muovono palesemente la bocca e non emettono suoni, oppure iniziano a parlare dopo che hanno iniziato a muovere la bocca. Ma sai cosa? Secondo me non ha neanche aiutato il fatto che comunque gli attori americani fossero cani. I doppiatori sono doppiatori di professione, quindi fanno fatica a essere cani. Cioè, nel senso, lo sono ma per motivi diversi. È vero, però aspetta, non mi ricordo, ce n'è uno che è particolarmente merdoso all'interno del doppiaggio, che è... non mi ricordo se è un passaggio... Il contadino, diciamo che non è che sia poi così bravo il doppiatore, però sì, nel senso... Madonna! Dai, il contadino vero... americano è abbastanza ritardato, comunque. Sì, no, ma anche in italiano fa ridere perché parla proprio da film americano doppiato. Non so se ci avete mai fatto caso. Quando ho guardato una produzione di 30 anni fa, 40 anni fa, sì. Utilizzano un linguaggio che non è proprio della lingua italiana. Tipo, cioè, detective in corsia. Sì. Esatto, cioè è una roba che tu... Se senti parlare una persona nella vita reale come parlano i personaggi di un film, chiami la neuro, perché dici che sono un ictus. È tipo cannarsi. Quindi no, il contadino vabbè. Parla in quel modo, cioè inventa robe, non... usa degli intercalari che non usano più, credo che non abbiano mai usato, cioè tipo accidenti, accipicchia, credo siano parole che stanno sul vocabolario ma che nessuno ha mai pronunciato in una situazione di bisogno, però. Portiamoli in auge, facciamo gli hipster del vocabolario. Io non ce la faccio, ci provo, ma non mi verrà mai di parlare come parlano loro. E poi che altro? Ah, la colonna sonora. La colonna sonora è davvero, secondo me, pregiata, perché perché racchiude un po' quello che era il pop anni 80. Sì, infatti è molto bella. Piena di synth, piena di... Ma anche solo il riffettino che fanno ogni tanto, è fico. Sì. E non so se lo sapete, c'è anche la canzone vera e propria di Killer Clowns from Outer Space. Cosa? Sì, la mette all'inizio, no? Alla fine. Sì, anche all'inizio. All'inizio, se non sbaglio, quando presentano i titoli, c'è proprio la canzone, che è una canzone completa, è un pezzo di 4 minuti. Wow. Fantastico. È una roba croccante sapere che hanno addirittura composto una canzone che poi riprende il tema del circo. Sì. Quella fa parte della canzone, non avevo neanche capito. Sì, quella è una canzone suonata da, okay. da una band, cioè registrata in studio. Fa schifo, nel senso che è prodotta davvero di merda, però, però è bellissima. Ma ascoltare. No! No, è vero. Non ti fanno mancare nulla. No. Vedi, cioè... È un po' nello spirito del film, nel senso che le idee ci sono, ma non ci sono i soldi, quindi lo facciamo lo stesso e non ce ne frega un cazzo. Esatto, cioè... A me invece ha dato... Scena... Vai, vai. No, scusami, invece a me ha dato proprio l'idea di volerlo fare così di merda. Sì, sì, credo, ma credo che sia un 50-50 alla fine, nel senso che alcune cose le hanno pensate cazzone per farle cazzone, alcune cose le hanno purtroppo dovute fare così perché non c'erano né i mezzi né i soldi per renderle meglio, ma è bello per quello, cioè è bello sì, sì, perché... no, è bellissimo, cioè, tipo, è bellissimo che nonostante gli manchino i soldi, dicono comunque facciamolo vedere, cioè non cerchiamo di fare una roba tipo mezza artistica per nascondere le, cioè, i limiti. Esatto, che è lì stupendo. Dove poi arriva il trash, insomma, quando succedono queste cose. Perché... Esatto, tipo, c'è cioè, la scena... Vai, vai, scusa. No, no, parla, parla. La scena quella del... Quando stanno dentro l'astronave ci sono i bozzoli, vabbè, tipo che sembrano tipo zucchero filato. Sì. O anche la scena del... Quando usano il modellino del camioncino alla fine... Sì. Con il tizio nella... quella, cioè, è proprio una... è trash, ma è bellissima come cosa. Cioè, per tutte le idee in mezzo che ci hanno avuto cioè, di trucchi visivi, di non lo so, un sacco di inventiva, non mi aspettavo. È un po' la filosofia che c'è dietro a questo tipo di pellicole cult degli anni '80, nel senso che siccome giravano un botto di soldi. Ad una casa di produzione non gliene fregava niente di stanziare un paio di milioni di dollari per fare un film, quindi anche sia i produttori che gli sceneggiatori che il regista si sentivano liberi di fare quello che volevano, insomma, perché comunque i soldi gli sarebbero arrivati. Invece, per esempio, adesso lo sceneggiatore deve stare molto attento a quello che propone, perché poi c'è la produzione che gli taglia le cose perché magari sono rischiosi. Invece lì non gliene fregava niente, hanno fatto un film. Dobbiamo fare un film, ci mettiamo dentro clown perché mi piacciono i clown. Poi che cosa è che va di moda adesso? Gli omicidi, i clown ammazzano le persone. E poi che l'astronave è il tendone, poi facciamo la canzone, ma non abbiamo i soldi per facciamo lo stesso. Questo poi era un po' comici. Sì, allora parliamo un attimo del genere, perché io non ho saputo. Io tuttora non saprei collocarlo. Se qualcuno mi chiedesse di che genere è... Allora, secondo me è sempre comedy. La cosa carina è che loro lo fanno pensando a un horror. E infatti secondo me la scelta dei clown è proprio perché è un richiamino a clown visto dal punto di vista di horror, di film horror. Però il film non è un film horror, per niente. Sì, è più un mocking. È più uno slasher, sì, è una cosa più parodistica. Esatto. Io l'ho vista molto parodia, appunto, del, che ne so, tipo l'invasione degli ultracorpi, tutti questi film. Però c'è una scena che è particolarmente horror, che è quella del burattino umano. Perché, no, perché quella è fatta veramente bene, cazzo. No, quella è spettacolare. Esatto, perché coinvolge l'unico attore vero di tutto il film. No, è vero. Noi parliamo di Joe Vernon, sì. Allora, non so se lo sapete, il protagonista, che io credo sia stato preso a caso dalla produzione perché passava di lì al momento di nessuno, non è un attore, cioè nel senso lui lavora ancora, ma è un produttore, cioè lui non c'entra una sega con la direzione artistica. Lui produce i film. Il coprotagonista no, il coprotagonista ha avuto una bella carriera in televisione, però faceva schifo in quel film. L'unico attore era quello che faceva... Lei, come abbiamo appurato, è cagna. No, lei non è anche presa in considerazione perché credo sia stata creata dalla natura solo per fare quel film e poi è sparita, non è mai esistita prima. C'è la scena quando lei prende lui e lo sposta e poi comincia a parlare. E mi è sembrato tutti i flashback boys, cioè è stato una... Aspetta, quale scena dici? Che stava dentro l'astronave e tipo lei lo prende il tizio, il ragazzo. Ah sì, che lo prende per sposta. Il collo, lo prende per il esatto, padre, prende per il collo e cioè proprio si vede che è fatto, capito, come se fosse, sai, i bambini a teatro che devono fare le cose precise, prima così, poi devo fare questo, poi devo fare... Cioè... È vero, è meravigliosa. Poi non so se ci avete fatto caso, lei nel suo metodo per comunicare le emozioni allo spettatore gesticola, cioè tipo quando deve far vedere che è sorpresa o spaventata si mette le mani in testa, ma tipo tre volte all'interno del film, ogni volta che c'è un pericolo urla e si mette le mani in testa per far vedere oddio sono spaventata. Le origini italiane. Ma comunque, dicevamo, la scena del burattino, molto figa. Sì, perché appunto dicevamo coinvolge l'unico attore vero all'interno del film, che mi pare sì, è John Vernon. John Vernon. Che ha fatto un botto di roba, lui era proprio un attore di professione, non so, forse è impazzito, non so come sono riuscito a convincerlo. O forse dei 2 milioni di dollari un milione andava a lui e il resto l'hanno speso per il film. Forse non ho capito. Ma sai, magari resto... era verso fine carriera, quindi ha detto... Ah, tu dici... Sì, sti cazzi. Che... Sì. Facciamo un po' di soldi, ci divertiamo. Vabbè, ma anche il poliziotto biondo, Dave, quello ha fatto roba. Sì, però è più... Ha fatto Baywatch. Beh, allora... Sì. Era un... Vabbè, nelle serie TV. Sì, però ha avuto ovviamente parti secondarie, se non terziarie, però comunque ha lavorato fino ad ora. Sì, comunque quei dettagli tipo il fatto dei... Cioè, che sai le righe della mascella, della mandibola del pupazzo? Sì, che sono palesemente disegnate. Cioè, che sono disegnate, ma sono sangue. Sì, cioè, ma sono almeno fatte... è sangue, così, sì. Cioè, non lo so, c'è un più degenerato questo film. In un contorno, diciamo, un po' trash, però ha un cuore... Dai, trash forse è un po' troppo estremo, io l'avrei definito grottesco, perché... Allora, per... Se... Scusami, no, dicevo... No, per... ma... Niente, non ce la facciamo, vai! No, perché manca un po' di contesto. Allora, per chi ci ascolta, che non è ancora andato a corso a vedere il film, che va visto, volevo dire due robe. Allora, intanto, cioè io ho detto appunto che questi clown arrivano e uccidono gente, e in effetti è questa la trama, però c'è qualcosa da dire. Allora, prima di tutto, i clown uccidono la gente con tutti diciamo che sono le morti, sono tutte diverse, quindi è praticamente tutto il film parla di gente che viene uccisa dai clown, ma ogni volta lo uccidono in modo diverso, quindi questo è molto carino. E in più i clown utilizzano solo e unicamente cose da circo e da clown per uccidere la gente. No, è essenziale perché, cioè, il film si segue bene proprio per quello, perché in realtà appunto la trama non c'è, e quindi se fossero semplicemente clown che uccidono la gente, ed è per quello secondo me che non è un horror nel senso stretto, nel senso che non è che c'è suspense, c'è ansia, c'è niente, è più una raccolta di sketch di questi clown che ammazzano gente in modo diverso, a torta in faccia, a fiorellini che spruzzano acqua, eccetera eccetera. A volte anche a tema con la persona che devono ammazzare. Esatto, sì, sì. No, vabbè. Poi infatti mi ha fatto piacere questa cosa che come hai detto tu, che ogni volta uccido in maniera diversa, perché tipo all'inizio della prima scena ho detto cazzo, sembrava volessero quasi fare un horror con quell'ombra che lo seguiva, poi gli ha sparato, ho detto ma che cazzo è, poi per fortuna diciamo l'inventiva poi lì sembra da salire per le morti, insomma. Anche molto... perché poi dal punto di vista della storia c'è un mischione di roba geniale secondo me, perché è un po' l'anti-hit, cioè nel senso, loro nel film dicono che loro sono i clown originali, cioè quelli da cui l'umanità ha preso la figura del clown, che io non ho ben capito perché se una cosa del genere fosse vera tu dovresti rubare l'immagine di un assassino per far ridere le persone, però è geniale. Quindi c'hai la teoria degli antichi astronauti, c'hai un palese sfottò a Hit, che poi da quello che ho capito loro non uccidono e basta, cioè nel senso loro sono qui anche per nutrirsi, per farsi uno snack intergalattico, perché poi le persone appunto le conservano. Se Andrea mettesse via le carte. I bossoli di zucchero filato e poi se le ciucciano con delle cannucce molto carine. Altro? Che cosa avete notato? Allora, volevo dire, intanto un plauso perché appunto il titolo è citato nel film ed è molto fico, e anche in modo sarcastico, quindi proprio si prende gioco di se stesso. E poi un'altra roba che volevo dire è che comunque in realtà ci sono anche delle inquadrature molto curate. E Per esempio, ce n'è una con due punti di vista e due messe a fuoco e due, quindi due piani. E quindi alla fine in realtà ci sono anche tante piccole cose, tanti piccoli tocchi di creatività che comunque lo rendono un bel film, cioè fatto Sì, dai, bene. registicamente è curato, non è uno spettacolo, non è Sì, niente un di film che nuovo, ti fa gridare al però sì. miracolo, però la regia è curata, quindi fa il suo lavoro, fa Sì. supporta una trama che non c'è. Poi che Va bene. altro? Boh, la presenza di macchiette, di stereotipi per tutto il film, c'è il poliziotto Io ho burbero, il sperato piccottone che mangiasse una ce l'ha con... ciambella. Ah, è vero, non si vede mangiare la ciambella, però lui è quel tipo di poliziotto un po' arcaico, un po' fascistello che ce l'ha con i giovani. Poi c'è la nuova recluta che cerca di farsi credere dal suddetto poliziotto e non ci riesce. Poi c'è la gallina che è la coprotagonista che non serve a niente. Poi no, ecco, questa è la domanda che dopo ho capito, la scelta di rendere i coprotagonisti, tra virgolette, rivali in amore. Non ho perché il poliziotto deve essere l'ex di lei che si apparta col ragazzo, cioè è un casino che non serve a niente, poi se ci pensate. No, è utilissimo invece, perché così si crea questa. Ridere. Si crea Ridere, non riesce a dirlo. non riesco a dirlo. Si crea questa tensione tra i due, capito? C'è sempre un po' di Che però attrito, c'è viene sempre. risolta nei primi 10 minuti perché ci manca poco e si mettono a pomiciare loro due, capì? Beh, Quindi però cioè, alla ah, fine, migliori amici. secondo me alla fine è aperta una cosa a tre, te lo dico. Ah, ok. Però loro Allora la tensione fateci cambia. caso che loro diventano amici dopo che hanno scaricato lei, perché ovviamente la donna nel 1988 non prende decisioni, men che meno all'interno di una situazione di pericolo. Quindi loro hanno Esattamente. deciso che lei deve tornare a casa e nel mezzo dell'apocalisse dei pagliacci lei decide di farsi una doccia. Poi vabbè, ci sono scene incredibili di recitazioni meravigliose del bagno, però se ci fate caso, da quando loro mollano lei diventano migliori amici per sempre. Sì. Insieme in macchina pattugliano la città. Cioè, questo film è avanti, vedi? Cioè, già aveva capito, le donne sono la fonte di tutti i problemi, Beh, tutte intanto non c'è storie. neanche un nero, è questo. È vero, io stavo aspettando arrivasse il nero per dire, oh, questo uomo muore subito, e invece manco ce l'hanno messo. No, perché credo li abbiano sterminati loro, cioè nel senso. Quindi era il 1980, non c'era il bisogno di inserirci una persona di colore. Sì, Davano poi per c'è. scontato che nessuno l'avrebbe voluta vedere. E invece il Avevano un ruolo po' dei le due lights. minchioni? Scusa? Il ruolo dei due minchioni? Dei fratelli Ma quelle sono due macchiette che... Terenzis. Sì, sono i Terenzi. Terenzis. Sono... Terenzi Spurlato, i fratelli Tezenis. Non sono lì che non fanno niente, cioè nel senso servono per... Sono tipo Buldi e De Sica, loro poppano fuori, cicciano fuori, dicono le loro due cazzate, fanno ridere, oppure salvano i protagonisti È alla fine vero, sono degli prendendoci la... eroi. Sì, loro sono un po' la spalla degli eroi, la spalla comica, perché poi nella loro comicità distraggono, comunque forniscono aiuto ai protagonisti che... Ricordiamo, hanno rischiato di crepare più volte, ma purtroppo io speravo che uno dei due schiattasse male, invece Ci stava che il biondo crepasse. Ok. crepi, crepa. Va bene. Comunque è dell'88 sto film, giusto? Sì, uscito nell'88, prodotto nell'87. Perché comunque, beh, It dell'86, il libro. Sì. Però come tematica questo film, cioè, pensavo quasi, cazzo, forse è tipo del 91-90. No, Perché. è il primissimo film che fa vedere dei pagliacci assassini. Primissimo. Comunque, cioè, avanti per tante cose, anche questa tematica del fatto che all'inizio. I due protagonisti cercano di spiegare cosa è successo e nessuno gli crede. Anche tipo la gente che chiama il poliziotto e lui non ci crede. Cioè, fa molto anni 90 in realtà. C'è una cosa che non so, cioè, ha un sacco di cose innovative sto film, mettiamola così. Che nell'88 non erano così diffuse. Nell'87, vabbè, quando è che è stato 88, prodotto? 88. 88 è uscito, 87 l'anno di Ah. produzione. Cioè, vabbè, era per Sì, vabbè. solo Andrea. informazioni in più. Andrea. Sì? Eh? Com'è? Quale giudizio estetico hai maturato nei confronti della pellicola? Lo dicevo... Le impressioni? Lo dicevo ieri a Salla, mi pare. Cioè, quando l'ho visto ho detto, vabbè, questo è... Cioè, non so, questo sto guardando, una cosa orribile. Poi, so, è così brutto che giro tre volte, tipo, e diventa epico. E non lo so, io quando ho finito di vederlo ho detto, ma questo, cioè, questa è una fusione tra scuola di polizia e piccoli brividi, cioè, è vero, non lo so, adorabile. Voi io immagino voi l'abbiate visto in Full HD, perché c'è una versione... No, io no. Io sì. Io lo... Ed è fatto anche molto bene, tra l'altro. Sì. Io l'ho visto anni fa la prima volta in versione dvx.torrent.ita.cose e poi avi. Punto avi. Ci dissociamo, è illegale scaricare film. Chiaramente non fatelo mai. Ma condivideteli. Ma condividete. Certo. E poi l'ho rivisto in Full HD, comunque in versione rimasterizzata, e temevo ci sarebbe stato l'effetto Trolls, che è un altro film mostruoso anni 80, ossia che i pupazzi, perché di questo parliamo, nel senso non c'era CGI per rifare i pagliacci, erano degli attori infilati a forza dentro costumi di gomma con la faccia animatronic. Io pensavo che queste facce sarebbero risultate finte all'ennesima potenza, invece no, è veramente bello. Cioè, è bello perché voi immaginatevi sul set le persone che vedevano questi pagliaccioni, questi mascheroni, così come li vediamo noi adesso. Sì. E quindi erano... Non c'è né l'effetto Star Wars con i cazzo di laser finti, né l'effetto Ghostbusters, che quando l'ha rimasterizzato ha messo i laser a culo. È veramente fatto bene, anche perché probabilmente appunto gli effetti speciali non erano così invadenti, e quindi, cioè, gli effetti oltre ai pupazzi non erano così invadenti, e quindi è venuto bene, molto bene. Poi sono molto esagerati i volti, quindi non fa un brutto effetto, insomma, sapere che sono finti o capire che sono finti. Beh sì, anche perché risultano finti dalla prima occhiata, ma anche se vedi la versione in qualità 1988, che è tutta molto patinata, a bassa risoluzione, non ti sembrano veri, cioè non credo abbiano mai una parvenza di vero. Però è bello, ma sorpreso. Funziona. Perché di solito ogni volta che vedi un film di 30 anni fa, ormai iniziamo quasi a parlare di 40 anni fa, quando vedi una produzione di 30 anni fa e poi la rimasterizzi... 88, rega, io sono del 90. Non diciamo ste cose. Devi renderti conto che ormai stai invecchiando e tra un po' sarai carne frolla come i morti di Killer Clowns. In un zucchero filato. In un bozzolo di zucchero filato, pensa che bello. E finisci lì i tuoi giorni. Ah, meraviglioso anche il momento in cui loro non capiscono dove sono e fanno ipotesi, tirano illazioni a destra e a manca. Con lui che asserisce che siano in una fabbrica di zucchero filato, sì. Per poi in maniera totalmente involontaria, naturale e per niente forzata strappa via un pezzo di zucchero filato per rivelare un volto coperto di... E tra l'altro lei si dimostra due volte cagna, perché gli dice: hai mai visto una fabbrica di zucchero? Sì. In un modo atroce. Hai mai visto una fabbrica di zucchero filato così? È incredibile. Beh sì, sì sì sì sì. Recuperato assolutamente, va visto questo film, almeno, cioè, se poi siete fan di tutta la cultura pop e cult degli anni 80 come lo sono io, avrete già visto per forza, perché è tipo l'ABC. Però se non lo siete, magari dategli un'occhiata, che ne vale la pena, insomma. Cioè, è un'oretta e 20 impiegata. Sì, alla fine non dura tanto. Molto, molto serenamente, molto scialla. Va bene. E, Jacopo, hai qualcosa da aggiungere? Purtroppo no. Non ho trovato la quantità di sangue sparsa in Rambo. Ah, cazzo, è vero. E per la scommessa barra rubrica possiamo rimandare al prossimo episodio. Vabbè, no, io invece però ho una roba da aggiungere. Claudio, se vuoi spararci un paio di titoli di altri film simili o sulla falsa riga. Non troppi. Questo è il suono che volevo sentire, vai, cazzo. Sono tanti, guarda, c'è... È una fede, è una religione guardare questi film, cioè devi votarti completamente alla visione di queste pellicole. Non lo so, cioè dipende, cercate qualcosa sulla falsa riga di Killer Clowns, quindi dei cult che però si guardano, oppure volete vedere una roba veramente atroce che però è talmente brutta e fatta male che diventa bella, cioè nel senso... Facciamo uno e uno, dai. Due e due. Allora, ci siamo. I primi due sono Troll 1 e 2. Allora, okay. L'uno è vagamente abbozzabile. Forse è il peggiore perché è quello riuscito un po' meglio, tra virgolette. Quindi risulta forse solo noioso. Il 2 è un qualcosa veramente di apocalittico, però risulta... Ragazzi, Trolls 2 è il film più brutto della storia, secondo multiple... diciamo riviste è talmente brutto che fai il giro e diventa un capolavoro davvero, cioè veramente, perché lì non c'è niente di volontario, c'è solo una sequela di errori, di mancanza di talento, di robe orrende che però danno un valore, cioè sottraggono talmente tanto che alla fine diventa maestoso, cioè diventa un'esperienza mistica, se non ti suicidi una volta che hai finito sei impervio a qualsiasi altro film. Invece, se ma scusa, devi aver visto il primo per guardare il secondo, poi guardare direttamente il secondo? No, cioè, teoricamente sì, perché è la storia che continua. Però, però dal momento in cui tu premi play nel secondo, tu dimentichi la tua vita, cioè nel senso che non fai più, resetta il cervello, quindi non è richiesto per forza guardare più. Se te lo vuoi guardare è un valore aggiunto che poi capirai... Sì, esatto, capirai la lore di Paul, che ricordiamo essere stato diretto da Claudio Fragasso, che è meraviglioso. Invece, se volete una roba semigodibile alla Killer Clown, secondo me Critter, su cui hanno lavorato poi anche i fratelli Chiodo, non come registi, però ci hanno lavorato, Critter 1, 2 e 3, mi pare. Sì, perché... Critter è... Oddio, questo lo conosco. Pupazzetto lo conosco. Sì. No, ma perché sono sempre pupazzoni, assassini, robe. Quindi questo è. Troll è veramente una merda, ma Troll credo che ne parleremo, perché ve lo infliggerò. Ok, va bene. E niente, basta. Poi ti ringraziamo. Ringrazio voi per l'ospitata. E basta, adesso andiamo a registrare un film, una puntata su un film sapio che uscirà la prossima settimana. E... dalle stalle alle stelle, insomma. Non lo so, non ho visto il film. No. Vabbè, perfetto. E niente, dai, ringrazio anche Jacopo e Andrea e ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao con la K.